Riconvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Riposare per martedì che c'è altre partite importanti. In questo stadio ha vinto Maradona per due volte. Domenica scorsa vi ha mandato un messaggio. Bene, campione d'inverno, forza ragazzi, fino alla fine. No, siamo calmi. Se poi noi pensassimo di poter essere alla pari a una squadra che viene da quattro scudetti, tre supercoppe, una Coppa Italia e una finale di Champions, saremmo dei pazzi scatenati. Mandžukić c'è già davanti in area di rigore, Super Mario Mandžukić a terra, calcio di rigore, parte l'argentino, Dybala, nel segno di Dybala. Non ha fatto una grandissima fatica oggi la Juventus a mettere la decima vittoria consecutiva, secondo posto, sorpasso all'Inter, meno due dal Napoli. È un duello oramai, insomma, ci sono pochi dubbi. 800 24 00 24, prenotatevi per intervenire, siamo in diretta fino alle 19, oppure i vostri sms e i vostri whatsapp 349 238 6666. Questa è, insomma, il 4-0 della Juve a Udine, è la copertina della giornata perché porta al duello con il Napoli, però poi la notizia forse è un'altra. Intanto saluto Carlo Getta, ciao Carlo. Saluto anche Alessandro Vocalelli, direttore del Corriere dello Sport, ciao direttore. Ciao direttore. Possiamo dire che la notizia è che anche la Roma di Spalletti è incapace di cambiare passo, marcia, di vincere in casa con l'ultima, è un po' la sorpresa. Il dato politico è che si è visto all'Olimpico esattamente lo stesso pomeriggio che i romanisti, che eravamo tutti quanti abituati a vedere nelle ultime... Sì, quello di Garcia. Aspettate che vi faccio sentire Florenzi in diretta da Sky. Florenzi. Se no stavamo qui a parlare di un'altra partita. Abbiamo visto tante idee nuove, comunque anche nella posizione di alcuni giocatori, da Nainggolan a Pjanic, alla tua stessa posizione. Adesso bisogna avere il tempo però per metterla in pratica. Un po' di tempo ci vuole. Il mister è nuovo, anche se conosce già tutto l'ambiente, ha cercato di portare le sue idee qui e in parte c'è già riuscito in questi pochi giorni. È nella testa, sì, che magari bisognerà adesso agire, poi tra una settimana avrete la Juventus. Bisogna mettersi sotto e da domani subito stare in campo per mettere in pratica quello che il mister vuole e cercare di mettere in difficoltà gli avversari. Questo Florenzi, ancora... direttore. Allora, Alessandro Vocalelli, direttore del Corriere dello Sport. Cosa traiamo come lezione da questo 1-1 di Roma-Verona? Che nulla è cambiato. Che Spalletti è sicuramente un ottimo allenatore, ma Garcia non era veramente quello sprovveduto che probabilmente è stato dipinto negli ultimi giorni, e probabilmente c'era un motivo, ahimè, per cui non poteva giocare Castan. Non è che lo facesse per un'antipatia personale, ma perché evidentemente non era abbastanza reattivo. E Spalletti ha fatto la scelta di metterlo subito in campo e Castan... perché non è che ha procurato il rigore del pareggio, però ha procurato il rigore, il che vuol dire, insomma, che bisogna cercare di cambiare, però tenendo presente sempre che chi c'era prima, ripeto, sicuramente avrà avuto delle cose che ha fatto che erano sbagliate, ma se faceva alcune scelte è perché evidentemente, conoscendo i giocatori, vedendoli tutti i giorni per 2 anni e mezzo, soprattutto nell'ultimo anno, si era reso conto che alcuni giocatori non erano pronti. Mi dispiace dirlo per Castan, ma era evidente. Spalletti ha voluto fare quest'atto, diciamo così, di cambiamento, secondo qualcuno di presunzione, io credo semplicemente di fiducia nei confronti del giocatore, e non è andata bene, insomma. Per cui cambiare sì, ma senza pensare che è sufficiente cambiare. È incredibile come non ci sia stata neanche una reazione emotiva, almeno quella me l'aspettavo, così come mi aspettavo più gente all'Olimpico. Invece i dati dicono che Insomma, è stata forse, mi dicevi Giovanni, la seconda peggiore affluenza di questa stagione. 6.000 paganti più virtuali 23.000 abbonati, peggio di oggi, ma peggio per poche decine, soltanto con Genoa, Atalanta e Udinese. E finisce tra i fischi come al solito. Cioè, pazzesco tutto questo. Copione identico. È pazzesco, però se non hai né gambe né idee, è difficile che io... Non credo mai all'aspetto semplicemente psicologico, emotivo. Io credo che la crisi della Roma sia una crisi di gambe, perché ci sono dei giocatori che quasi si trascinano, ed è una crisi di idee. È una squadra che non sa più come stare in campo, e allora si può pure mettere tanta voglia in più, ma rischi soltanto magari di correre a vuoto e di non andare da nessuna parte. Sì, però direttore Spalletti l'altro giorno, appunto, ci ha detto basta alibi, la squadra sta bene, non c'è un problema fisico, non voglio più sentir parlare di problema fisico. Ora noi venerdì abbiamo detto un po' paraculo, un po' aziendalista, però anche un po' presuntuoso, è un po' presuntuoso e abbastanza aziendalista, perché diciamo, tra l'altro, il motivo vero, diciamo, di contrasto, di contrapposizione tra Garcia e la proprietà era proprio sul fatto della preparazione, che secondo Garcia non era stata evidentemente piuttosto positiva, e sappiamo che era stata affidata a uomini di fiducia della società, per cui Spalletti in quel modo, insomma, diciamo così, ha dato un pochino una mano alla proprietà nel momento in cui arriva. Però sembra che poi i risultati del campo, come si dice, no, il campo alla fine è sempre giudice unico, dimostra che la preparazione questo momento non è particolarmente, la condizione non è particolarmente brillante. Io ho l'impressione che da qui a qualche mese su diversi punti ci troveremo a dire in fondo Garcia non aveva poi così tanto torto, perché no, è evidente che paga anche ha pagato anche colpe non sue. Ma Garcia sicuramente ha sbagliato molto, però non è l'unico responsabile, per cui ripeto, se non fa giocare qualche giocatore, oppure se ha continuato a mettere Florenzi terzino, che secondo tutti noi era una cosa abbastanza innaturale, un motivo c'era, perché Torosidis, come si dice in gergo, gli aveva impiccato le ultime due o tre partite, facendo degli errori che avevano portato le squadre avversarie a pareggiare. Per cui, ecco, secondo me è giusto, per carità, modificare, fare soprattutto meglio, però non pensando mai che quello che c'era prima era veramente uno stupeduto, per cui Garcia responsabile ma non unico responsabile. Sì. Ti è piaciuta l'idea del 4-2-3-1 con Nainggolan alla Perrotta dietro, messo insomma dietro la punta, dietro Dzeko, che poi è stata la novità insieme a Florenzi avanzato, portata da Spalletti? Ma non mi sembra che ci siano stati grandi miglioramenti, nel senso che, a parte che io diffido quando noi cominciamo a dire chi fa Perrotta, chi fa Pizzarro, chi fa quell'altro. È un guardare al passato che ovviamente non è mai così produttivo, per cui non lo so, ogni giocatore ha le sue caratteristiche. Preferirei che Nainggolan facesse il miglior Nainggolan piuttosto che il miglior Perrotta, nel senso che riuscirebbe a far meglio nel ruolo suo piuttosto che adattato in una funzione, diciamo, che era di altri. Sì, sono d'accordo, scusa se insisto, ma il dato dell'Olimpico, allora, ci si aspettava, io mi aspettavo una reazione emotiva dalla Roma, almeno nervosa, e non c'è stata. Mi aspettavo che qualcuno in più tornasse all'Olimpico per sostenere la squadra. Silenzio di tomba e alla fine soliti fischi. No, io invece su questo devo dire che i tifosi della Roma sono assolutamente coerenti, perché se poi ognuno la può pensare come vuole, se è giusto o se è sbagliato, però se fossero tornati allo stadio oggi sarebbe passato il messaggio che i tifosi non andavano esclusivamente per una forma di critica e di contestazione nei confronti di Garcia. Invece non era così. I tifosi della Roma hanno altri motivi di sapore, di discussioni, che vanno dal livello della squadra a tante situazioni, anche quello, sappiamo, delle famose delle barriere in curva. Eccetera, eccetera. Per cui con tutta la loro fiducia che hanno dimostrato, diciamo, via etere e anche accogliendolo all'aeroporto nei confronti di Spalletti, se fossero andati oggi allo stadio sarebbe sembrato quasi, ripeto, che fosse stato tutto indirizzato a Garcia, e così non era. Il malessere è profondo e la Roma non ha mai vissuto un distacco così forte, che poi non è indifferente, perché la partecipazione, diciamo, dal punto di vista psicologico c'è, ma la lontananza fisica si fa sentire. Sì, qualche punto costa giocare in uno stadio non ostile, ma praticamente deserto, questo. Però certamente. Mi fai dire una cosa grossa. Andare allo stadio è quasi un fatto sociale, non solo sportivo, e pensare di liberarsi del problema della gente allo stadio con diciamo tutto quello che rappresenta anche in termini di attenzione, di ordine pubblico, di prevenzione, liberarsene di questo problema non facendo più disinteressandosi del fatto che la gente non va più allo stadio, ritenendolo un fatto alla fine diciamo inevitabile, è una sconfitta, è un errore. Secondo me tutti nel loro ruolo, ma proprio tutti, dalla società alle istituzioni ai dirigenti, dovrebbero preoccuparsi del fatto che la gente non va più allo stadio, perché tra l'altro vuol dire anche in questo modo distruggere un senso di appartenenza e di partecipazione che generalmente si tramanda di generazione in generazione, per cui se salta poi una generazione e il rischio è che saltino anche quelle successive. Esattamente, perché c'è una disaffezione ed è un peccato. Sì, posto che poi non si può in nome di questo restare sotto ricatto, come spesso a lungo è stato fatto, ma non mi riferisco anche soltanto insomma alla piazza di Roma, in generale è uno dei mali del nostro calcio. Grazie direttore. Ciao direttore. Buona serata a tutti, ciao. Grazie ad Alessandro Vocalelli. C'è chi ci dà dei fenomeni, perché abbiamo aperto il processo Spalletti, arrivato da 72 ore. Paolo, amico, però se pareggi in casa contro l'ultima... No, non è a Spalletti. Qualche domanda te la puoi porre anche su Spalletti. È a tutto il contesto. 800240024, torniamo subito dopo il traffico. Partita in bilico, spot per noi. Tutti convocati. Tutti convocati. 349-238-6666, sms e whatsapp. Sì, facciamo il processo alla Roma di Spalletti, perché questo pareggio vuole dire tanto. Poi adesso apriremo anche il discorso invece sulla Juventus e sul duello che è nato, ci accompagnerà credo per gran parte della stagione con il Napoli. C'è chi ci ricorda che anche la Lazio è in crisi di pubblico. Sono due facce della stessa medaglia. Sono due facce della stessa medaglia, soprattutto per la questione della protesta con le istituzioni. Spalletti non poteva avere un inizio più morbido come avversario, questa è un'aggravante. Non poteva cambiare la squadra come un mago in poche ore. Ma qui c'è però la presunzione invece di aver detto che questa Roma immediatamente poteva e doveva dare di più. L'ha detto lui, ha detto che la Roma stava bene, che gli alibi erano finiti, e quindi insomma gli ha levati lui gli alibi da sotto i piedi dei giocatori, ma giustamente. E per quanto riguarda il resto, mi sembra una situazione kafkiana quella della Roma, perché il pubblico non va perché chiaramente è arrabbiato con la società, perché Pallotta non cede ad alcune richieste. Questo vale per la Roma e per la Lazio, che arrivano da quelle parti. Non mi vengono a dire che è una questione di risultati, perché non lo è, perché l'altro giorno c'è tanto altro. Liguori ricordava che quando la Roma lottava per non andare in Serie B, tutti quanti andavano in massa a Bergamo. Un cordiale saluto a tutti gli amici di Tutti Convocati Weekend. Sì. Buongiorno. Spero peraltro, spero peraltro non intervistiate questo Jim Morrison, che ripeto non so chi sia, se è un giocatore dell'Ajax o del Marsiglia, chi se ne frega. Perché lei ha fatto il tweet, quello, ma i suoi fan sono tutti drogati, quindi Parliamo invece della Roma, insomma 1-1 non bene, no? Col Verona. E basta con sto Spalletti, mandatelo a casa. Che era l'esordio. Io lo dicevo, ma guardi, io l'ho sempre detto, questo lei deve darmene atto, pure lei gente che è un mio elettore. Non le sono dicevo, suo elettore. Ecco, io le dicevo sempre appunto, ragazzi, Garcia andava assolutamente tenuto, ma tutta la vita. Ma, è proprio per questo motivo che io dico con la consueta pacatezza che mi contraddistingue nei miei tweet. Però io sinceramente non ricordo questa cosa. Garcia è un grandissimo allenatore che ci aveva pure le idee chiare. Rimpiange Garcia. Assolutamente, io dico con assoluta pacatezza, lei lo sa, in maniera sobria, nonché all'insegna della massima sportività, a Spalletti gli dico: te ne vai o no, è un po' presto, te ne vai, è un po' presto. Sì, no. 800240024, c'è Gianmarco dalla provincia di Caserta. Stiamo aspettando le parole di Allegri. Saluto Vittorio Reggia, Tutto Sport. Ciao. Ciao direttore. Ciao a voi. Ciao. Allora, è il duello, lo possiamo dire, Juve-Napoli. Guarda, io non vorrei andare un po' troppo oltre, perché fino a 2-3 settimane fa era il vero duello Juve-Inter, adesso è Juve-Napoli. Io credo che con un campionato così strano e così sostanzialmente equilibrato nelle parti alte della classifica, bisogna avere un attimo di prudenza in più. Certo che la Juventus, da quando si è messa a giocare da Juventus, quindi da quando ha recuperato il 3-5-2 e ha visto maturare Dybala e ha visto entrare in pianta stabile Khedira, è tornata a essere la macchina da guerra dell'anno scorso e sicuramente lotterà fino alla fine. Sì, e poi riesca a vincere lo scudetto, questo magari a volte è legato anche a degli episodi. Sì, la sensazione è che ci aggrappiamo al miglior giocatore del campionato che è Higuain, il miglior attaccante che avrà certamente il miglior giocatore del campionato e al miglior portiere del campionato che è Handanovic, se no rischiamo di vivere tra tre mesi un film già visto. Sì, io messi in fila due numeri nelle 10 partite della striscia vincente della Juventus, 7 punti recuperati al Napoli, 11 all'Inter, 17 al Sassuolo, lo metto perché poi è lì, sì. 18 alla Roma, 20 alla Lazio, poi vedremo il conto con Fiorentina e Milan questa sera, direttore. Beh, cioè, i numeri... rischia di essere un falso equilibrio, cioè noi viviamo su un equilibrio creato dall'handicap che la Juve si è assegnata all'inizio. Beh, sicuramente se la Juventus non si fosse assegnata l'handicap, come dici tu, a quest'ora non ci sarebbe già più campionato. Però come c'è stato un periodo di crisi per il Napoli, c'è stato un periodo di crisi per l'Inter e per la Fiorentina, sicuramente ci sarà anche una flessione per la Juventus, perché fisiologico non è che può vincere sempre tutte le partite. Adesso ha una striscia straordinaria di 10 vittorie, una di fila all'altra, domenica prossima incontra la Roma, insomma... Se dovesse pareggiare una partita nelle prossime giornate, penso che non ci sarebbe da urlare allo scandalo, perché ci sta. Detto questo, i numeri di questa Juventus sono impressionanti, perché probabilmente è davvero impressionante la Juventus. All'inizio pensavamo che senza Pirlo, senza Tevez, senza Vidal si fosse rotto il giocattolo. Bisogna oggettivamente fare ammenda nei confronti di Allegri, dello stesso Allegri, di Marotta e di Agnelli, sono riusciti a ricostruire un giocattolo che funziona. Poi, lo ripeto, a volte gli scudetti si vincono anche per episodi o si perdono per episodi. Sì, sì, però rivaluta totalmente il lavoro dei tre personaggi che avrei già citato. Questa... Sì, è un mercato costato tanto e che evidentemente che non era così da prodotti. Vi faccio sentire le prime battute di Colantuono a Sky, l'uomo che oggi ha visto i fantasmi per 40 minuti. In certa maniera così la volevamo fare. Abbiamo avuto anche la mezza occasione con Widmer all'inizio. E poi purtroppo alla prima occasione abbiamo subito questo gol. Poi abbiamo fatto troppi errori individuali. È chiaro che contro queste squadre, se fai questi errori, poi è normale che fai fatica a portare a casa il risultato. In più siamo rimasti in 10, abbiamo giocato in 10 per più di un'ora, è normale che la partita a quel punto aveva preso un andazzo completamente sbagliato per noi e tutto a favore della Juve. Mi dispiace, la Juve è più forte di noi sicuramente, fa un altro tipo di campionato rispetto al nostro, però dobbiamo cercare di eliminare. Contro le grandi ci è successo sempre questo, abbiamo iniziato sempre molto bene, molto aggressivi, poi abbiamo fatto degli errori individuali che spesso ci sono costati cari. Ecco, questo Colantuono, direttore, Udinese è rivedibile oggi, soprattutto nella fase difensiva. Ricorda Colantuono, lui era stato anche con l'Inter, sì. qualche gol regalato, due gol abbastanza comici, punizione di Dybala con Carnesis che non sa bene da che parte girarsi, e poi soprattutto il secondo, quello di Khedira, che è stato lasciato da solo a un metro dalla porta, come non succede neanche sui campetti dell'oratorio. Più forte Dybala o Higuain in questo momento? Guarda, oggettivamente in questo momento forse Higuain ha qualcosa in più, perché è più vecchio e più smaliziato, detto male ha più pelo. In prospettiva sicuramente Dybala, io penso che Dybala diventerà un giocatore incredibile, perché ha tutti i colpi e a poco più di 20 anni ha già la faccia tosta dei grandi campioni, per cui in prospettiva ti dico sicuramente Dybala. Oggi forse Higuain ha davvero quel qualcosina in più, del resto 20 gol in 20 partite anche in questo caso sono numeri inconfutabili. Sì, e insomma Sarri può legittimamente rifiutare il ruolo di favorito, cofavorito in questo scudetto, ma se hai un attaccante così, in una stagione così, io credo sia quasi fisiologico, naturale che tu ti debba portare la croce di poterlo vincere questo scudetto. Vale per il Napoli, maggior ragione per la Juve. Grazie direttore. Ciao direttore. Grazie a voi, buona ciao. Continuazione. Grazie ciao. Vittorio Reggia, c'è Allegri, microfoni di Sky. E più quella del Carpi, direi quindi che è un bel risultato, però non bisogna assolutamente pensare che il record è 12, 15, 18 vittorie. È un mini campionato di 19 partite dove siamo partiti da meno 2 dal Napoli e quindi bisogna cercare di fare un punto più delle squadre del Napoli che c'è davanti e cercare di tenere dietro quelle che sono dietro senza pensare al record e robe varie. Oggi la partita sicuramente ha consolidato la classifica e direi questo è il merito dei ragazzi. Lei parla spesso di questo Allegri nella sua prima valutazione. Il record, quello di Conte, è lì a due passi, le 12 vittorie consecutive di Conte e la Juventus a domenica prossima la Roma in casa e poi va in trasferta a Verona. Guarda, contro il Chievo. Credo, conoscendolo gli credo, non gli importa niente del record di Conte, non gli importa niente del record di punti, non gli importa niente di queste cose. Ad Allegri importa di riuscire a continuare nel suo ciclo che è perfetto da quando è alla guida della Juventus. Ci sono due amici, Lorenzo e Francesco da Chiaravalle, 349-238-6666, che chiedono tra Mandzukic, Morata, Dybala e Tevez, Llorente, Morata, quale sia il tridente migliore. Mandzukic, Morata, Dybala contro Tevez, Llorente e Morata. Difficile, non lo so, bisogna proprio rispondere. Sono giocatori, secondo me, allora, il primo per quello che sta facendo Dybala. Il primo, cioè, il secondo l'abbiamo visto, l'abbiamo vissuto. E a parte Morata, che è ancora lì, insomma, fa parte del passato. Questo è in pieno divenire, quindi diventa un po' difficile. Lo valuteremo strada facendo. Marco dalla provincia di Caserta, 800-24-0024. Marco. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Pierluigi non c'è per caso. Arriva fra dopo. Pochi minuti. Ah, peccato, gli volevo fare un appunto. Comunque, vado alla Roma. Sì. Voi avete parlato di Garcia, chiaramente non ha tutte le colpe e via dicendo. Però c'è una cosa che bisogna imputare a Garcia, sì. Promettendo che non è l'unico colpevole, che praticamente lui nasce con un'idea di gioco che riesce ad attuare fino praticamente a Roma-Bayern 7-1, 7-0, non mi ricordo quando finì. Sì, 7-1. Perché fino a quel punto la Roma aveva una logica, aveva un suo gioco e Garcia aveva una sua, diciamo, personalità, risultava simpatico, risultava un personaggio. Sì, poi la Roma è implosa quella notte in poi. Sì, a quel punto non solo è implosa, Garcia ha cambiato completamente modo di essere, proprio si è fatto, non so che gli sia successo, ma comunque la situazione l'ha saputo gestire dal punto di vista mediatico, è risultato pessimo. Dal punto di vista del gioco, la Roma praticamente non ha più avuto un gioco, era sì, una però, squadra che potevo allenare in quel modo, però, Marco, anche per, io, scusate, però Marco, un anno fa di questi tempi, un anno fa Marco di questi tempi, Garcia chiedeva un attaccante e gli fu consegnato a fine mercato uno rotto, Ibarbo, e uno che non era in condizione, Dumbia. Quest'estate chiedeva due centrali difensivi perché evidentemente aveva capito che il problema era lì e ancora oggi siamo qui a parlare che Castan non garantisce un rendimento sufficiente nemmeno contro il Verona. Forse no, Garcia le letture le aveva fatte giuste sulla preparazione atletica, forse le aveva fatta giusta. Scopriamo oggi che la Roma cammina malgrado le parole di Spalletti. Assolutamente, la Roma cammina e Spalletti si è già messo al vento, no? Con le dichiarazioni del giorno del suo arrivo. Garcia sembrava il grande rivoluzionario, aveva costruito la sua prima Roma che arrivava, lo ricordiamo, dall'umiliazione pubblica sotto la curva dopo la Coppa Italia persa contro la Lazio. Quindi era una squadra alla quale i tifosi facevano già la guerra. Ebbene, la sua prima Roma fu qualcosa di meraviglioso. Ricordiamo, e poi si è fermata un po' filotto lì. Di partite. 10 vittorie consecutive prima del pari col Sassuolo. Sì, 10 vittorie consecutive che erano una montagna. Allora, vi ricordo il numero a cui telefonare per intervenire. 800-24-0024. Ci fermiamo per un minuto, poi arriva anche Pierluigi Pardo, speriamo. Pubblico sempre inferocito per le perdite di tempo. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Convocati. È stata nella posizione che gli ho chiesto, Daniele uguale, però poi quando hanno riconquistato palla, hanno verticalizzato addosso alle punte, siamo stati sempre costretti a rifare 80-90 metri di campo, che era una cosa che non doveva succedere vista la differenza di qualità di squadra che c'è. Quindi possiamo dire che è una squadra a cui manca un po' di struttura, un pochino disorganizzata in talune situazioni. No, è andata dietro l'impeto della reazione, però ha ragionato poco, ha perso troppi palloni in mezzo al campo, ma non persi perché ha tentato di giocare, persi perché ha tentato di ribaltare subito l'azione in maniera troppo frenetica, mentre il perderli giocando, quello è una cosa che si poteva fare. Ha fatto dei cambi interessanti, ha cambiato le posizioni di Nainggolan e Pjanic. Le chiedo quale di questi esperimenti le ha dato effettivamente soddisfazione, se il ruolo di Pjanic in regia o se quello di Nainggolan un po' più avanzato. Ma tutte e due, perché poi, come ho detto prima, le posizioni le hanno mantenute, le hanno rispettate. Si sono un po' annullati a vicenda, perché non hanno giocato molto sulla tre quarti, i due mediani, e spesso siamo andati a scavalcarlo, mentre Raja ha fatto bene quel ruolo lì, e oltre ad essere bravo negli inserimenti e nel poi trovare gli spazi per ricevere, ha questa bacchiata da fuori che può creare problemi sempre. Ma soprattutto salta sempre addosso quando si perde la palla all'avversario e non li fa mai giocare bene, che doveva diventare o perlomeno doveva aiutare a un compito più facile i difensori sulla riconquista. Prima dello studio, allora, hai capito che cosa c'è che non vale la Roma? Convochiamo immediatamente tutti gli amici di Roma. Cos'è la bacchiata? La bacchiata da fuori, possiamo intuire, però 800-24-00-24, cos'è la bacchiata da fuori? La tutti sassata, gli amici toscani, tu dici sassata, fuori? Sì, toscani più che romani, hai ragione, toscani. Ciao Pier! Ciao, ma credo sia la Roma toscana la bacchiata. Sì, la bacchiata, hai ragione, la toscana. La fuori, no? Comunque noi li convochiamo anche quelli di Roma, non c'è mica problema. Convochiamo tutti. No, ma anche per spiegarci che cosa ha detto Spalletti sui problemi della Roma, perché noi eravamo fermi alla Roma che non aveva più alibi, non aveva problemi di condizione, doveva vincere subito, era competitiva già per lo scudetto. Oggi ci siamo improvvisamente risvegliati, Pier, con la Roma che fa 1-1 col Verona, che di punti in classifica con oggi ne ha 9, se non partita sbaglio. Partita identica, dicevamo, Pierino, ambiente compreso rispetto alle ultime esibizioni di Garcia, quelle di questa stagione. Sì, direi innanzitutto che la Roma da oggi è ufficialmente fuori dalla lotta a scudetto, e credo che ormai sia ufficiale. E poi è l'ennesimo pareggio subito in rimonta, perché c'è anche questo aspetto nelle ultime tre partite della Roma, le prime tre partite del 2016. La Roma è sempre andata in vantaggio, è sempre stata raggiunta. Quindi c'è un'ulteriore difficoltà tattica e psicologica nella gestione della partita. E un disastro che chiaramente, sai, il nuovo allenatore ovviamente non è che possa essere colpevole, che è ovvio che Ti aspettavi almeno una Roma con una faccia diversa, una reazione emotiva quantomeno? Assolutamente sì. Questo mi pare che invece non sia avvenuto, ed è la dimostrazione che insomma la condizione fisica non è all'altezza, la condizione psicologica è sotto i tacchi. Penso a uno come Dzeko, tanto per fare un nome, no? Di un giocatore che non vede mai la porta, però che fa fatica, enorme fatica. Ma credo che con oggi, ne parlavamo all'inizio con Vocalelli, anche Castan esca dai radar, perché Spalletti scommette su di lui, e la resa insomma è quella di oggi, l'abbiamo vista, il rigore, quello del pareggio provocato da lui, giocatore evidentemente in difficoltà. Garcia non aveva torto in tante letture, probabilmente, a partire dalla condizione fisica. 800-24-00-24, centralino, prenotatevi Gigi da Reggio Calabria. Gigi. Sì, buonasera. Eccoci. Senta, io volevo dire, in base alla Roma, la Roma, a mio paese si dice, ci vogliono i ferra o si fanno i cozzetti. Sì. Lo traduco, che traduco. Meglio. Ci vogliono i ferri per fare le calze. Ora, se la Roma non si attrezza con giocatori all'altezza, non va da nessuna parte. Spalletti, o non Spalletti, bravissimo, per carità, ci mancherebbe, anche Garcia bravissimo, ma la Juventus si è attrezzata, ha perso Tevez, ha perso Pirlo, ha perso Vidal, ha comprato giocatori all'altezza, e quindi Allegri può stare allegro, perché anche... Sì, perché Spalletti non gli dà fastidio, stai dicendo, Gigi? No, no, per carità, no. Ma questo Spalletti... l'avevamo capito da qualche settimana, però... Sì, però due mesi fa stavamo dicendo delle cose totalmente, diametralmente opposte a queste. Dicevamo che la Juventus aveva perso la sua luce e non aveva sostituito adeguatamente quei giocatori. Adesso, due mesi dopo, siamo qui a dire il contrario sulla scorta dei numeri. Pier, posto che la Juve di Rosa è certamente più forte della Roma di quest'anno, dell'anno scorso, probabilmente anche dell'anno prossimo, secondo me la notizia di oggi è, e se io fossi un tifoso della Roma sarei preoccupato, che la lettura che Spalletti ha dato della situazione della Roma sia rivelata profondamente sbagliata. E non è un buon punto di partenza. In che senso? Beh, è arrivato dicendo che la squadra era pronta a essere competitiva, aveva alibi, non voleva più sentir parlare di condizione fisica. Sono quelle cose che si dicono, sai. Ti assumi una responsabilità da lì in poi. Non è che puoi arrivare a dire la squadra fa schifo, speriamo di non perdere in casa col Verona. Sono quelle cose che si dicono, poi è ovvio che Spalletti non è uno sprovveduto, si renderà conto, si sarà già reso conto dei problemi, che sono grandi, sono enormi. Io sono d'accordo con te sul fatto che certamente Garcia, da questo primo assolutamente parziale, provvisorio, verdetto, diciamo esca con la soddisfazione di poter dire che non era lui il problema, questo non ci sono dubbi. Perché quella reazione che ci si poteva aspettare non c'è stata. Sì. È anche vero però che se la squadra è in questa condizione, anche perché la squadra ha lavorato per mesi, allora o è stata avallata una campagna acquisti sbagliata, e questo pure ci può stare, perché pure i giocatori, io non trovo che la rosa della Roma sia particolarmente completa, però c'è anche proprio un discorso di difficoltà dei singoli, di qualità fisica della squadra, e su questo ovviamente c'entra molto più Garcia di Spalletti, ma qui adesso non è vuoi più bene non papà, né, sì, non Garcia questa squadra l'ha preparata, no, e sappiamo cosa c'è sotto. Sì, c'è sotto il commissariamento del precedente allenatore. No, ma noi non stiamo difendendo Garcia, però no, insomma, quando un allenatore sposa in 48 ore così tanto una delle due parti, come ha fatto Spalletti, credo sia giusto dopo l'1-1 col Verona anche fare qualche riflessione, perché c'erano modi più neutrali, non, per carità, non è che Spalletti deve venire a raccontare che la Roma era scarsa, ma forse c'erano modi più neutrali per approcciare la situazione. Però aspetta, Pier, intanto bacchiata in Toscana, in toscano ci scrive un amico, vuol dire bastonata forte data col bacchio o bacchiolo, detta anche bacchiolata, proviene dalla battitura del grano. Capito, e questo, facciamo anche della cultura. Facciamo anche della cultura. Pop. Saluto Massimo Paganini intanto. Ciao Massimo, buonasera. Ciao, buonasera. Perché adesso parliamo, scrive un amico, parlate dell'altro fenomeno Mancini. Adesso parliamo anche di Mancini. Prima però c'è Antonello da Roma. Antonello. No, Antonello da Perugia, comunque buonasera. Prego, Antonello da Perugia. È tifoso della Roma. No, io non ho seguito il dibattito ancora precedente e non so se mi ripeterò su alcuni concetti, volevo fare una riflessione sulla Roma. Ho sempre sostenuto che quando una squadra va male non sia solo colpa di un allenatore, ma ci sono tante componenti che fanno il successo o l'insuccesso di una squadra, la società, l'organizzazione, la campagna acquisti. Quindi in questo momento, al di là che Spalletti ho sempre considerato un ottimo allenatore, ritengo che i risultati a Roma non si vedranno subito, anche perché ritengo che la pecca più importante di questa squadra è stata proprio la campagna acquisti, come voi dicevate in precedenza. È evidente, le statistiche lo dicono, che c'era bisogno di un difensivo. La Roma anche quando ha vinto ha sempre preso gol. Quindi questo era il primo problema e non è stato risolto. Poi acquistano attaccanti con la struttura fisica di Dzeko e fa giocare due esterni come Gervinho e Salah, che il pallone danno solo quando il campo è finito. Cioè, voglio dire, qui mi sembra che qualcosa non è andato. Allora la domanda è questa: si comprano giocatori per fare solo plusvalenze o si comprano giocatori perché c'è un progetto, c'è una necessità veramente? Questo è uno dei problemi della Roma. L'altro, e concludo, è che telecomandare, gestire una società al di là dell'oceano e poi avere in mano tutta la situazione di come vanno le cose a Trigoria. Sì, è quasi un sogno. A Roma parlano anche gli alberi hanno le orecchie intorno a Trigoria. Allora mi viene da dire, al di là della cultura calcistica, almeno di pallotta, su cui ovviamente c'è un discorso americano di sport con cultura dello sport, mi viene da dire, Ma è possibile a Roma gestire una società a distanza o ci vuole un presidente in loco? Beh, no, questo non lo so, ma magari una figura forte, non un presidente, ma una figura forte. Aspetta Antonello che ti faccio rispondere da Massimo Paganini. Massimo, cosa pensi sulla Roma? Beh, logicamente il progetto è partito da lontano. García era il terzo anno questo che lavorava, per cui al di là di tutto che García in questo momento, nel momento in cui si è deciso di cambiare l'allenatore, si dovrà dare del tempo a Spalletti per poter lavorare nel modo corretto, nel modo giusto, di per riportare le sue idee. È vero che comunque il risultato non è determinato solo ed esclusivamente dall'allenatore o solo dai giocatori, ma da tutto ciò che sta attorno. E di conseguenza credo che la Roma debba ancora crescere da questo punto di vista. L'ambiente è particolare, quello romano, quindi la società dovrà strutturarsi e diventare forte abbastanza per riuscire a sopperire anche a questo tipo di difficoltà. Sì, ambiente Juve... oggi ambiente che fa fatica a essere positivo, in quello c'è una differenza, sì, anche con la Juve in difficoltà. Esatto, voglio dire, si erano esaltati tantissimo in quel 2-1 della partita d'andata contro la Juventus, adesso stanno cadendo quasi in depressione, se vogliamo, visti i risultati. Non bisogna abbattersi troppo quando le cose vanno male, bisogna diventare, ovviamente bisogna rimanere con i piedi per terra quando le cose vanno bene o ti sembra che vadano troppo bene, anzi è proprio nel momento nel quale le cose vanno bene che devi lavorare per migliorarle. Secondo me la Roma non lo ha fatto, la società Roma non lo ha fatto come avrebbe dovuto quando le cose stavano andando bene e la Roma stava diventando una squadra importante a livello nazionale, e adesso se ne stanno accorgendo perché sono avvicinate tutte le altre squadre. L'Inter ha recuperato, la Fiorentina sta facendo un buon lavoro, il Napoli ha fatto un ottimo lavoro negli ultimi sei anni. Sì, hanno continuato a pensare di poter vincere lo scudetto perché la Juve era partita male e in realtà il mondo intorno era cambiato. Vi devo chiedere un minuto di pazienza perché c'è il traffico, poi parliamo anche dell'Inter. 800 24 00 24, Massimo Paganini, Luigi Pardo, traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Purtroppo non siamo una squadra che segna tanti gol, questo è dall'inizio della stagione. Per questo dico che bisogna, cioè, ci sono certi giocatori che devono iniziare a far gol. Vincere 1-0 non le mette tante, però a volte no. Non basta farne uno. Non sono contento, ma non sono contento per le prestazioni di qualche giocatore, perché secondo me devono fare di più, devono andare di più, perché le partite queste qua si vincono anche per la classe e la qualità di giocatori, quindi devono fare un po' di più. L'obiettivo resta la Champions League o si può pensare allo scudetto? Il nostro obiettivo è sempre stato quello, ma se noi ci rimettiamo sulla strada giusta, ritorniamo ad essere, a non concedere, a regalare gol, perché i nostri sono stati 4 regali gli ultimi 4 gol, quindi credo che possiamo rimetterci e stare in alto per molto tempo. Questo è il riassunto sonoro della rabbia di Mancini ieri sera. 800 24 00 24, a proposito, aspettiamo anche gli interisti, quelli che 1-0 andava bene, quelli che è iniziata la fine del mondo nell'azzurro, nel senso di una stagione che era stata immaginata a un certo punto addirittura come stagione da scudetto, sì, e adesso rischia di ridimensionarsi con contraccolpi che vedremo quali saranno. Massimo Paganini, tu hai capito con chi ce l'aveva? 1,25 gol a partita, lo scudetto non lo difficile, vince. No, difficile non lo vinci. Vincerli. 1,25 in media non lo vince. Con chi ce l'aveva ieri Mancini? No, sicuramente la rabbia dell'allenatore è la frustrazione, quella di vedere dei giocatori che dovrebbero avere un po' più di consapevolezza di quello che è l'obiettivo dell'anno, no? Le stagioni diventano importanti nel momento in cui i giocatori prendono consapevolezza, ossia si rendono conto di ciò che devono fare sul campo, non mollano nulla, vanno in campo con quella determinazione, quella concentrazione, quella cattiveria agonistica che serve a portare a casa il risultato. Mancini non lo ha visto ieri come non lo abbiamo visto noi da fuori guardando la partita. È mancata questo tipo di consapevolezza, è mancata questo tipo di cattiveria agonistica, e di conseguenza l'Inter ieri ha subito troppo, perché al di là del risultato proprio ha subito troppo in un campo come quello dell'Atalanta, dove ha incontrato una squadra che era in difficoltà perché veniva da 4 sconfitte consecutive, e invece ieri è riuscita a trovare una prestazione importante e l'Inter si è salvata grazie ad Handanovic, che ha fatto 3 interventi nei quali ha salvato il risultato. Quindi credo che sia questo, dal punto di vista mentale, quello che Mancini chiedeva ai suoi giocatori. Lui ha bisogno di giocatori importanti nella sua squadra, è chiaro che i giocatori importanti devono fare la differenza, ossia devono andare in campo e devono avere una cattiveria agonistica diversa dagli avversari. Sì, che è un po' però quella frase, anche la negazione dell'idea di un gioco costruito. Pier, io non so che idea ti sei fatto. Si vince grazie al colpo del singolo. In questo campo, in questo momento, i singoli dell'Inter latitano, tranne Ljajic che accende qualche scintilla, Jovetic è sparito, Icardi è sempre contraddittorio nelle sue partite. Che ho da inizio stagione, no? Nel senso, con la squadra che vince tante partite di nervi, che vince così tante partite equilibrate, sicuramente ha una grande testa e sicuramente l'Inter ha fatto un grande girone d'andata perché ha portato a casa tante partite equilibrate, però è anche vero che non ha, diciamo, la forza per poter vincerli tanto e quindi è sempre sul filo. E in un momento come questo, dove oggettivamente ha ragione Mancini, c'è stato qualche regalo in più dal punto di vista difensivo e qualche, diciamo, scintilla di personalità in meno davanti, e poi i risultati non arrivano. E quello è il dubbio che ho da inizio stagione, cioè quello di una squadra che sta facendo comunque un grande cammino, perché sì, certamente un grande cammino, e Mancini pure va sul filo dei 78-80 punti finali, e sono inimmaginabili, molto importante. Però ecco, quando si pensava alla possibile fuga, insomma, la fuga la fanno le squadre che vincono facile, e le squadre che vincono facile in questo momento sono altre due, sono Napoli e Juve. Sì, e non certamente l'Inter, secondo me. Poi magari cambierà. E poi chiudiamo con Massimo Paganin, sarà anche salutare per l'Inter forse smettere di pensare all'idea dello scudetto. Cosa che evidentemente nelle ultime settimane è stata fatta anche da Mancini. Non deve smettere di pensare, è stata in testa per maggior numero di giornate rispetto a tutte le altre in questa stagione. L'Inter deve risolvere i suoi problemi, ma non smettere di pensare in grande. Massimo, non sono d'accordo. No, assolutamente non deve smettere di pensare in grande, perché credo che debba costruire una mentalità. Poi non ci si può arrivare, perché i numeri in questo momento dicono che Juve e Napoli sono le due squadre che sono prime per ciò che riguarda la parte sia offensiva, quindi di quello che fanno davanti nei tiri in porta, nel possesso palla, nella gestione delle situazioni di gioco, che anche in fase difensiva, perché è vero che l'Inter ha concesso poco, è vero che l'Inter è la squadra che ha concesso meno gol agli avversari, ma è quella alla quale probabilmente di quelle di testa tirano di più in porta, tanto è vero che Andanovic è primo nelle classifiche, in tutte le classifiche, come parate effettuate, quindi c'è qualche cosa da valutare, da rivedere, soprattutto nell'equilibrio della squadra. Però sei lì, vuol dire che hanno lavorato bene. Come ho detto prima, i giocatori devono rendersi conto ed essere consapevoli del fatto che essere davanti significa competere con gli altri, significa andare in campo ogni domenica per dover dimostrare di essere i più bravi. E questa è una cosa complicata. Sì, perché, oggi mi ha impressionato Buffon, minuto 75, è andato praticamente a sbattere contro il palo sul 4-0 per togliere una punizione di Lodi. A proposito di mentalità, Massimo, credo è questa che c'è. La Juventus ha questo blocco che ha portato avanti giocatori importanti che dal punto di vista mentale non mollano mai, tant'è vero che sono stati Evra e Buffon a richiamare i compagni dopo la sconfitta di Sassuolo e a richiamarli all'ordine. Non significa solo spendere delle parole, ma significa giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, dimostrare sul campo con i fatti sì, che si vuole vincere. Credo che questo sia lo spirito che hanno i giocatori della Juve ed è quello che vorrebbe Mancini dai suoi giocatori, no? È stato un giocatore vincente, è stato un allenatore vincente e sa benissimo che per poter vincere c'è bisogno di questo spirito di abnegazione, questa determinazione, convinzione, questa motivazione particolare che ti spingerà a fare più degli altri, arrivare al campo prima ed andare via dopo proprio perché vuoi. Valore aggiunto che oggi l'Inter nei suoi leader o presunti tali certamente non ha. Domani vedremo. Grazie Massimo. Ciao Massimo. Grazie a voi, buonasera. Grazie Massimo Paganino, 800 24 00 24. Ci sono tanti messaggi, li leggiamo dopo il GR. C'è però Bruno da Napoli. Bruno. Sì, buonasera. Eccoci. Sì, vi ringrazio per l'ospitalità. Prego Bruno. Sì, volevo tornare sull'argomento di prima, sulla divisione delle cose, sì, allo Stadio Olimpico e Lazio. Per me, a mio avviso, è un provvedimento che apprezzo, insomma, e che ammiro soprattutto la dirigenza di Roma e Lazio che ha saputo prendere distanze dal tifo organizzato, perché quando si diceva prima, no, c'è un problema che si possono allontanare i tifosi, cioè ben venga che si allontanano le frange estreme del tifo, e sono sicuro che se Roma e Lazio tornano dei buoni risultati lo stadio si riempie, ma con la parte buona del tifo. Cioè, speriamo Bruno, credo questa sia la scommessa, però il tema è interessante, l'abbiamo anche già toccato. Pier, se sei d'accordo, dopo il GR ne parliamo, rispondiamo anche a Bruno da Napoli, rispondiamo ai tanti che ci stanno scrivendo, 349 238 6666. C'è anche sfida scudetto, posso dire sfida scudetto? C'è anche Alessandro Del Piero, sfida scudetto. No, ma sai che lui fa l'americano, non hai visto? Ma io volevo parlarvi di sfida scudetto del campionato più bello, ad esempio quale? Dove si fa tanta plin plin, quale sfida scudetto ad esempio? Beh, non so, Chievo Empoli. Ma no, non è che bisogna dire una partita Carpi, a caso per Carpi Sampdoria. No, nemmeno Carpi Sampdoria. Ma a me piace parlare di sfida scudetto, sì, a prescindere. Perché tu ormai sei un commentatore sportivo, quindi sfida scudetto, ma potete. Parliamo della vittoria della Juve, invece, dai. Parliamo, ma sì. Non esistono più partite facili. No, ma diciamo qualcosa di interessante. Il calcio è uno sport semplice. Alex, qualcosa si gioca 11 contro 11 col pallone. E alla fine si vince e vince sempre la Juventus. È un po' scontata. Ci dobbiamo fermare. 800 24 00 24. Sfida Pierluigi Pardo resta. Sì, sfida scudetto. Abbiamo capito. Il sondaggio è: quanti punti avrebbe oggi l'Inter senza Handanovic? L'ha scritto Stefano da Firenze. Rispondete. 349 238 6666. Sfida. Finisce scudetto. Qua senza recupero il primo tempo. Gran spettacolo. Tutti convocati. Convocati. Cigarini bravissimo per Monachello. Handanovic, fantastica la parata, negare il primo gol in Serie A, Monachello. Palla sul primo palo, Handanovic con un altro grandissimo riflesso a togliere il pallone dalla porta dopo la conclusione di Toloi. Cross per Monachello che ha spazio, poi Cigarini da due passi, Handanovic non si sa come tiene la partita in parità. Dovevamo solo gestire un po', come ha detto, contro l'Aci, contro il Suolo, alla fine bisogna gestire e sapere quando non si può vincere la guerra, bisogna cercare la pace. Questo Samir Handanovic il saggio, ieri dopo Atalanta-Inter 8-0-0-24, c'è anche Pierluigi Pardo, ciao Pier, ci sei? Sì. No, adesso lo recuperiamo Pierluigi Pardo. Eccomi. Qui, Samir il saggio, secondo me dietro quella frase c'era anche la provocazione che lanciavo prima io, cioè meglio un po' di sana consapevolezza che tu non giochi per lo scudetto e ad esempio le partite si possono anche pareggiare, perché ieri Mancini ha rischiato tanto, a mezz'ora dalla fine ha buttato dentro tutti gli attaccanti, già col Sassuolo ha perso una partita con tutti che cercavano di vincerla e alla fine si sono dimenticati di difendere. Sì, ma pareggiare non salva niente. Sì, esatto, Piero. Mi piace questo approccio molto murignano. No, ma sai, come dice Handanovic, tu fai un paio di pareggi è sempre meglio di fare due sconfitte. Nelle ultime quattro l'Inter di punti ne ha fatti troppo pochi. Anche la palista lo dice, però tendenzialmente con i tre punti, contro i diretti esclusi ovviamente, le partite che sono in bilico, come quella di ieri, come quella contro il Sassuolo, sono partite che secondo me una grande squadra deve provare a vincere, anche a costo di rischiare di perderle. Perché su tre partite così, se due vinci, è matematico il discorso, no? I tre punti sono chiaramente una... Una condanna a vincere. Pareggi, no? Ecco. Ma sai qual è la sensazione di oggi, Pierino? È che ci aggrappiamo con tutte le nostre forze al miglior portiere del campionato, forse d'Europa, perché è anche uno di quelli che ha coefficiente di parate è più il elevato, coefficiente più alto. Più alto in Europa, quindi ci aggrappiamo al miglior portiere d'Europa e ci aggrappiamo al miglior giocatore del nostro campionato, Higuain, e abbracciamo forte il suo allenatore Maurizio Sarri, perché se va avanti così tra due mesi, se questi mollano tra due mesi, andiamo a vedere un film già visto. Ma anche tra un mese. Cioè, la Juve è arrivata sei più pessimista di me. E la Juve sicuramente comincia a vincere le partite con una forza, poi per carità, magari la Giudinese ha sbagliato la partita, ci ha messo il suo, però insomma vince le partite con una facilità che all'inizio non aveva, insomma la vittoria famosa col Torino, la stessa vittoria contro il Milan, è una squadra abituata a vincere. Io ho la sensazione, io ho fatto quella specie di profezia a settembre sul Napoli e non mi sento in colpa. No, ma noi restiamo lì però, Pier, vero? Cioè, noi restiamo lì, cioè io penso che Napoli, ricordo quella frase che ve la pronunciava la prima volta dopo Napoli-Lazio, sì, che era la prima vittoria in campionato del Napoli, quindi il mood era completamente diverso. Credo che Napoli stia facendo pienamente quello che avevo pronosticato. La verità è che la Juve è ritorna, ma è ritorna a livelli incredibili. E secondo me oggi è un testa a testa fra queste squadre. Guarda, lanciamo un sondaggio, intanto è aperto. L'ha lanciato Stefano da Firenze al 349-238-6666. Secondo me è ironico, ma non lo so. Quanti punti avrebbe oggi l'Inter senza Handanovic? Non valgono i numeri sotto lo zero. Ma secondo me avrebbe, non lo so. Comunque, se volete rispondere, 800-24-0024. Avrebbe i punti della Roma, secondo me. Bah, insomma, vediamo. Perché poi, ad esempio, adesso la butto lì come riflessione. Ma nel saldo dei punti, ad esempio, ha fatto più danni Sportiello, che ha fatto il fenomeno in Inter Sassuolo, di quello che può aver guadagnato o non perso l'Inter ieri, non perdendo a Bergamo. Ma questa è così una provocazione? No, ma io non parlo di ieri, però. Sì, io non parlo di ieri, no, lo so, è complessivo. Tante volte, aspetta, che abbiamo una fila di ascoltatori. Allora, Alessandro dalla provincia di Milano. Alessandro, buonasera a tutti e tre. Eccoci. E complimenti per la trasmissione. Grazie. Sembra un po' Del Piero, Sì. No. Prova a dire sfida scudetto. Io sono uno juventino. Sfida scudetto. Sì. Sfida scudetto. Allora, no, ma l'abbiamo capito. Prego, Alessandro. No, Alessandro. Secondo me il campionato si deciderà tra un mesetto, quando riprenderanno le coppe. E io però questo penso... è un po' da Del Piero, Stavo dicendo io, è molto Del Pieriana questa affermazione. E io penso che soprattutto il Napoli si auguri che la Juve possa... difficilmente, io da juventino sì, posso andare avanti. Esatto. Ah sì, difficile. Perché, e poi faccio un altro, concludo dicendo che, come diceva anche Carlo e come dicevate voi, se non fosse partita così male, 10 punti mi pare in 12 partite, forse staremmo parlando del campionato dell'anno. Sì, però lo diceva anche Monsieur de la Palisse questo, invece a noi piace rischiare di più, ad esempio. Bravo. Io la lancio così. Era Del Piero. La direbbe anche Del Piero questa, Pier. Ciao Alessandro. Ciao Alessandro dalla provincia di Milano. Fai plin plin. Ad esempio io lancio anche questa cosa, siccome è fra 5 giornate la sfida tra Juve e Napoli, quanti punti deve avere il Napoli per andarci tranquillo, che se perde non ha dei contraccolpi psicologici? Perché poi il calendario, ad esempio, dice che è un po' meglio per la Juve: Roma, Chievo fuori, Genoa in casa, Frosinone fuori. E il Napoli, ad esempio, ha le trasferte con la Samp, con la Lazio. Sono sfide scudetto. Poi gioca in casa contro Empoli e Carpi. Aspetta, Pier, c'è chi chiede quanti punti avrebbe il Napoli senza Higuaín. Domanda inutile. Allora togliamo i giocatori alle squadre. No, ma noi lo teniamo vivo, il sondaggio su Handanovic. Tanto per essere chiari, su Handanovic è ovvio che stiamo parlando di un giocatore che l'Inter paga, che l'Inter racconta, quindi non c'è niente di male, assolutamente niente di male nell'avere un grande portiere, anzi è una forma di forza. Ti dico, quanti scudetti meno avrebbe la Juventus senza Buffon? Si è sempre detto che Buffon era uno dei pochi portieri che valeva diversi punti a campionato. E gli è valse sicuramente. Guglielmo da Milano, prima del traffico, dai, facciamo Guglielmo da Milano. Sì, pronto, buonasera. Io chiamavo per fare una riflessione su Empoli e Sassuolo, in realtà. Sì. Provincia del nostro campionato, ma sì, che stanno avendo un campionato, un girone d'andata molto positivo, per cui quali sono i veri motivi di questo successo, quanto credete che possa durare e soprattutto non pensate che allenatori come Giampaolo e Di Francesco siano un po' troppo sottovalutati dalle nostre grandi. Però Guglielmo, non sono due province uguali, ne abbiamo parlato anche venerdì, il Sassuolo è una squadra buona borghesia, esatto, del calcio italiano, per investimenti, per proprietà, per organizzazione, basti vedere insomma il mercato che si permette di fare. E io credo, Pier, non so se sei d'accordo, che Di Francesco sia un allenatore in rampa di lancio. Ma assolutamente, da tanti anni, mentre Giampaolo è un allenatore che nelle ultime stagioni ha combinato poco. Quel poco che aveva fatto era stato negativo, insomma, questo va detto, quindi adesso possiamo anche dire che è sottovalutato. Sì, è sottovalutato nel senso che certamente, secondo me non è sottovalutato, cioè gli si riconosce di stare facendo una grandissima stagione, si merita il nostro applauso, ma viene da una serie di stagioni molto complicate, quindi siamo felici per lui, però sì, insomma ci vuole un po' di tempo, probabilmente invece è un percorso virtuoso che dura da anni. E che credo con la sola interruzione di oggi ero in aeroporto a Napoli con Carnevale, il direttore del Sassuolo, che mi raccontava insomma della gestazione di quella di quella strana cosa che è successa un paio di anni fa, di questi tempi, quando Di Francesco venne fatto fuori, Maresani arrivò e andò male, e mi parlò di un Di Francesco che forse aveva bisogno di un pochino di stacco e sì, che di una pausa di riflessione. Assolutamente carico, appena venne richiamato. Da quel momento in poi non si è più fermato. Il Sassuolo gioca un calcio che è un calcio, ma l'ha sempre fatto, anche nei momenti in cui la classifica era meno buona di questa, gioca un calcio positivo, offensivo, da squadra di alta classifica per attitudine, cioè non da provinciale. Quindi... No, no, ma difatti è una falsa provinciale, lo diciamo prima, anche per questo, poi la qualità dei giocatori, del mercato, degli investimenti. Aspetta Pier, stai lì che c'è il traffico, traffico. Oggi, sapendo che io dopo la partita non riesco a dormire, ho dormito, quindi io l'Inter non l'ho assolutamente vista. E domani alle 15 dorme o guarda la partita di Udine? Domani alle 15 guardo l'Inter, perché martedì giochiamo con l'Inter, ma non guardo in diretta, guardo le ultime 3 o 4 partite dell'Inter. Tutti convocati. Tutti convocati. Dopo leggiamo i messaggi che stanno arrivando, tanti, e ci sono anche tanti altri sondaggioni, quanti punti avrebbe Senza, che insomma meritano, che meritano. 800 24 00 24, abbiamo ancora tre quarti d'ora, quindi prenotatevi per intervenire. 349 238 6666 per gli sms e per i vostri WhatsApp. Più Luigi Pardo qui con noi, Carlo Genta e Arrigo Sacchi, che saluto. Arrigo, buonasera. Buonasera, buonasera. Mister, chi ha più meriti, chi ha fatto più punti fra Sarri e Higuain, visto che questa è la serata in cui contiamo quanto valgono i singoli? Sarri, quindi intendiamo il gioco del Napoli, e Higuain, quel meraviglioso campione che sta impreziosendo questa stagione del Napoli. Stiamo parlando di uno sport di squadra o uno sport individuale? Sport di squadra, sport di squadra. Però quando tu hai uno come Higuain, diciamo, puoi mettere insieme le due cose. Sì, ma c'era anche l'anno scorso e anche l'anno prima. E c'era anche prima nella sua vita sportiva. Mm. E non ha mai avuto questi risultati. Mm. E perché con Sarri funziona e con Benitez andava meno o non andava? Perché la squadra non funzionava come funziona ora. È impressionante, mister, l'organizzazione del Sarri è andato a Napoli. No? Io ho avuto un maestro che mi ha spiegato in due parole quello che la maggior parte si fa di calcio non ha capito. Io avevo da poco iniziato a fare allenatore e parlavo come gli allenatori e dissi: questo è il bibliotecario della cittadina dove io vivo. Sì. Dico, bisogna comprare un libero. Lui mi disse: che numero dai al libero? Il numero 6. Andò dentro lo spogliatoio, mi diede la maglia numero 6 e mi disse: adesso, se sei un bravo allenatore, il libero lo costruisci attraverso il lavoro e il gioco. Ma aveva fatto capire quali erano le cose importanti per migliorare i giocatori: il lavoro e il gioco. Poi ci vuole la loro volontà e la loro disponibilità e alla fine anche il loro talento, se c'è. Mm. Ma senza tutte queste cose il talento scompare, come è scomparso per tanti. Sì, come è scomparso, si è eclissato. Pier, prego. Sì, sì, ma insomma, il maestro è maestro di filosofia di calcio, quindi non ci sono dubbi, non ci sono dubbi sul fatto che i singoli siano fondamentali. Per esempio, ieri ho assistito una partita, ho fatto tre cose di una partita bellissima giocata, secondo me, alla pari dal punto di vista dell'atteggiamento tra le due squadre, dove la differenza l'ha fatta dal fatto che da una parte c'erano Hamsik e Higuain e dall'altra c'erano Politano e Falcinelli, con tutto il rispetto ovviamente per Politano e Falcinelli, che sono buoni giocatori. Però il mister giustamente porta avanti un discorso, una filosofia, che è quella che ogni allenatore deve avere, perché bisogna sempre pensare che è il lavoro, attraverso il lavoro, l'organizzazione, la costruzione di un'idea precisa di squadra, che si ottengono i risultati. Sì. Non certamente con una botta di talento, in qualche caso anche di fortuna. Quella può bastare per una partita, per due partite, ma alla lunga non dura. Poi la bravura è anche convincere i giocatori, come Sarri ha fatto, a seguire comunque questa grande mole di lavoro che viene portata avanti. Ecco, no? Questa è la parte forse più curiosa, perché è evidente che c'era una disparità di carisma tra Higuain, il campione, e Sarri, che arrivava dalla provincia. Arrigo. Ma guardi, Sarri deve conquistarsi tutto, perché non è stato un gran giocatore, quindi non suscita nessun effetto alone, ma i giocatori, dopo qualche giorno, l'effetto alone è già scomparso. Valutano la persona e come questi consente a loro di migliorare. Questa bella, questa è la cosa. Quindi questa ti è la cosa, pesano nello spogliatoio. Posso inciderla nella storia di tutti i convocati questa frase, sì. perché detta da Arrigo Sacchi ha ancora più valore ed è una cosa che vale, secondo me, per estensione in mille campi della vita. Ci sono mille volte, chissà quanti altri talenti, chissà quanti altri Sarri nel calcio e nella vita ci sono che magari non hanno la stessa opportunità. Chissà quante altre volte per una questione di physique du rôle non si sceglie qualcuno che poi magari invece sarebbe bravissimo. La verità è che nessuno di noi aveva un'idea del carisma di Sarri prima di vederlo all'opera. E ha scusi, non parli di carisma, parli della genialità, delle capacità. Arrigo, sono De Luigi Pardo, è il tuo centrale, il tuo stopper preferito. È un'altra voce. Sì. Non parlare di Arrigo, è il problema del telefono di Pardo che noi ci scontriamo tutti i giorni. Prego. Un grande stopper sarebbe stato all'antica, eh? Sì. Dicevi Arrigo? E il carisma viene dopo, questo è una persona, io lo conoscevo perché sono stato per 4 anni responsabile della nazionale giovanili e siccome le nostre under 21 giocavano tutti in Serie B, io seguivo i campionati in Serie B e allora mandavo i nostri allenatori delle giovanili, Torazzo, Evani, Di Biagio, Mangia, a vedere gli allenamenti di Sarri perché avevo visto che era una squadra che aveva armonia, aveva i tempi di gioco, se fosse stata un'orchestra sarebbe stata intonata, la maggior parte delle squadre non lo sarebbero, per essere chiari. Oggi però in Italia si sta verificando un qualche cosa inaspettato, stiamo uscendo da quella che era una dittatura tattica, intanto avevamo messo il tatticismo davanti dalla strategia. E senza la strategia è evidente che il tatticismo ti fa sopravvivere e ti fa vincere attraverso quelle che sono sempre state le nostre componenti primarie, la furbizia, l'arte di arrangiarci, queste cose. Sì, posso chiedere, perché mi fa venire in mente questa riflessione, abbiamo sentito prima Mancini dire ieri queste partite, quella di Bergamo, quando tu hai grandi campioni poi devi anche vincerle con lo spunto del singolo. No, e questo succede ed è normale, però se il singolo non viene approvvigionato sarebbe come avere un cannone e non arrivano mai nel 1600, non arrivavano mai le munizioni. È evidente che diventa difficile anche per il singolo. Gli faccio un esempio pratico: il più grande giocatore attuale del mondo è Messi, credo che nessuno possa. Benissimo, Messi è grandissimo quando gioca col Barcellona, non lo è quando gioca con l'Argentina, non lo è mai stato, è sempre Messi. Ma che cosa cambia? Ma cambia l'ambiente, cambia gli allenamenti, cambiano i compagni, cambia il gioco. Nel caso dell'Inter credo che ci sia un problema abbastanza significativo, per esempio della partita di ieri, che è riuscito a servire Icardi. L'Inter se mi è consentito, credo che abbia commesso Mancini, che sicuramente è una persona intelligente e con carisma, ha detto, ma ha preso tanti giocatori bravissimi, ma tutti degli specialisti, e con gli specialisti è difficile fare gioco. Loro interpretano la partita individualmente, sono tanti individui, tutti bravissimi, ma sono tutti specialisti del ruolo, i difensori specialisti del ruolo, questo, gli attaccanti. Fa così anche il Real Madrid, ha vinto meno pur avendo un fatturato di 600 milioni contro i 150 dell'Atletico di Madrid e i 120 del Siviglia, ha vinto meno negli ultimi 7 anni del Siviglia e dell'Atletico di Madrid. Puntano tutto sul singolo e non sul gioco. Oggi, quando dicevo che si è uscito da una tirannia tattica, si è uscito perché ci sono un gruppo di allenatori che hanno messo al centro prima di tutto il gioco per migliorare il singolo. Uno è Di Francesco, il nome lo possiamo fare. Dove arrivano i segnali migliori? Prego? Da dove arrivano i segnali migliori? Beh, abbiamo tante squadre, c'è un movimento in atto inspiegabile, perché la stampa ha aiutato poco, per essere chiari, perché parlano sempre solo del ciclo. I dirigenti, la maggior parte, hanno le società in debito, quindi si immagini se sono pazienti, se riescono ad avere una visione di gruppo, hanno una visione singola. Quando uno non ha una gran visione, vede uno, non ne vede mica di più. Però forse la televisione ha aiutato. Oggi abbiamo dei veri maestri e altri che cercano di diventarlo. Sono squadre che hanno messo al centro il gioco, poi il giocatore, perché sono convinti che attraverso il gioco di migliorare il giocatore. Sì, qualcosa di più bello evidentemente si vede. Queste sono cose che io dico da 30 anni. Quando io arrivai al Milan, tutti campioni, sì, ma non avevo mai vinto nulla e nessuno era mai stato nei primi 10 posti di France Football. Nessuno. E poi sono migliorati, il Milan è diventato anche quello, è arrivato anche qualche meraviglioso fuoriclasse, perché Van Basten lo era per madre natura. No, madre natura, lei pensi che in Cina ci sono oltre 100 milioni di iscritti e non hanno mai un campione per madre natura. Non c'è la scuola, è un'altra cosa. Certo. Van Basten era un grande giocatore che però non era mai stato guidato. Abbiamo 30 secondi, un minuto. Io ho un'ultima domanda per Arrigo Sacchi. Gli leggo le parole di oggi di Tavecchio sulla questione cammino di preparazione per l'Europeo del 2016. Tavecchio, che oggi, ma si era capito, insomma, ha preso posizione dopo le decisioni dei club e ha detto è ingiusto che i club sottomettano le necessità della nazionale, soprattutto quando si avvicinano Europeo e Mondiale. Volevo chiedere ad Arrigo Sacchi che pensiero, che riflessione fa su quello che è successo in questi giorni. Ma se io sono stato sia da una parte che dall'altra. Sì, appunto. Purtroppo, lo ripeto, non sempre si ha una visione ampia, quindi si fa fatica a uscire dal proprio egoismo. Molto probabilmente quando ero al Milan mi seccava, io mi ricordo che vennero convocati 4 giocatori per le Olimpiadi di Seul e se trovi un mese e mezzo e mi seccava, non capendo invece quanto ti può dare la nazionale a livello di immagine, a livello di esperienze. Quindi ha ragione Conte, insomma, in questo momento. Ha ragione Conte CT, perché poi Conte 2 anni fa avrebbe probabilmente detto cose diverse dall'allenatore della Juventus. Sicuramente, perché anche noi ci evolviamo e crescevamo e quindi capiamo anche quanto siamo stati limitati. Però il guaio è continuare a essere. Grazie Sacchi. Grazie Arrigo. Grazie Arrigo Sacchi. Stopperone. Magari. In stopperone ci riconosciamo. Sì, assolutamente. Allora, salutiamo Arrigo Sacchi. Adesso ci fermiamo, che c'è una piccola pausa. Però, Pier, prima di salutarti, quanti punti? Però devi essere veloce. Quanti punti in più avrebbe il Toro senza Padelli, Sergio? Quanti punti avrebbe la Juve con Higuaín? Svariati, ma anche però Dybala. Aspetta, poi c'è anche chi scrive quanti scudetti in meno avrebbe la Juve senza gli arbitri, ma facciamo finta di non averlo letto. Poi c'è un altro amico che scrive quanti punti in meno avrebbe il Napoli, il Milan senza puntini di sospensione. Ah no, sarebbe tanto sarebbe lo stesso. Chiedo scusa, Presidente, no? Io mi riferisco a Luca. Luca. Ecco, carissimo Luca, ti invito ad essere più positivo e più coeso. Stiamo esprimendo, mi lasci parlare. Stiamo esprimendo un'ottima organizzazione di gioco e un ottimo allenatore. Brocchi. Sì, ecco, appunto. 800240024. Ciao Pier, a domani. Ciao Pierino, ci sentiamo domani. Ciao Pier, ci fermiamo, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Lella Dani in telecronaca ha detto: Pavoletti sembra un animale e poi Pavoletti sembra Van Basten. Dov'è che si assomiglia di più? All'animale, sicuramente. Mitico Pavoletti oggi, gol da... Niente, c'è qualche problema con i tasti. Dicevamo, mitico Pavoletti, gol da figurina oggi, rovesciata come quelle figurine Panini. Tra l'altro, 10 gol in 13 partite, 5 nelle ultime 3. C'è chi dice che deve andare in nazionale. Sì, tutti quelli che fanno un po' di gol finiscono per andare in nazionale. Ma anche perché il posto è vacante adesso, al di là di Pellè. Per opinione pubblica diffusa, Pavoletti è un giocatore che ha fatto una gran gavetta, non è più un ragazzino, mi sembra che abbia 27 anni. È arrivato a giocarsi finalmente una stagione importante, lo sta facendo in un Genoa peraltro in grande difficoltà, quindi a maggior ragione. Però aspetta, nazionale di qui, nazionale di là... Insomma, mi sembra un po' eccessivo, ma questo è un vizio diffuso, è un'abitudine diffusa. Anche di, perché o di li chiama a marzo tutti quelli che vuole provare, o, come detto, Conte non avrà altro spazio prima di fare le convocazioni dei 23 dell'Europeo. 800-24-00-24, Michelangelo da Milano. Michelangelo, ecco, grazie per la pazienza. Prego. No, niente, parlare dopo Sacchi, allora adesso non so... che succede? No, non so che sciocchezze posso dire. Ma noi prendiamo io, tutti, eh. Ok, allora io volevo soltanto dire una cosa riguardo alla Roma. Sì. Comparata con la Juventus. Cioè, io credo che la crisi della Roma sia anche dovuta a un aspetto e culturale e di leadership. Cioè, la Juventus è partita malissimo, però ha avuto una leadership in generale che ha comunque tenuto botta a una situazione grave, cioè perdeva sempre. La Roma, secondo me, ha una leadership scarsa perché è dovuta a un ambiente che sostanzialmente condiziona moltissimo, come dire, la situazione e il fattore gioco. Sì, però questo è un problema storico, lo raccontava benissimo Fabio Capello, uno che a Roma ha vinto. Certo. Però credo che quest'anno e forse anche nella seconda metà dell'anno scorso, Michelangelo, cioè i problemi a Roma non siano ambientali, siano soprattutto tecnici, tattici, di condizione. Sì, per carità. Sono anche ambientali. Però mi permetto di dire un'ultima cosa, la questione anche dello stadio. Ora, io non conosco in merito a tutte le questioni, però è una questione abbastanza, come dire, cruciale da un punto di vista anche di business, di calcio, sì, di economico. Quindi il fatto che ci siano così tanti problemi mentre la Juve non li ha avuti sostanzialmente, questo è un fatto assolutamente, secondo me, che denota il fatto di una debolezza della leadership, perché non sa che pesce pigliare altro che dire benissimo, siamo contro di voi, punto. La Juventus vive a Torino una situazione, una situazione differente. Non solo per la Roma, costruire uno stadio in Italia diventa molto difficile, abbiamo appena visto oggi l'Udinese, però ha aperto completamente l'Udinese, c'è Reggio Emilia, ma speriamo che si moltiplichino questi esempi, non possiamo far altro che sperarlo. Anche se ci crediamo ben poco, soprattutto nelle grandi città. Francesco da Udine. Francesco. Salve. Eccoci. Eccoci. Senti, io sto tornando da Udine, stadio fantastico, la sono a Padova. Bello, davvero allora, bello. Volevo fare l'intervento per dissentire con due interventi precedenti. Prego. Volevo dissentire con Mr. Sacchi, perché secondo me il problema dell'Inter non è degli specialisti, ma il problema è del centrocampo che non esiste, perché il centrocampo passa, il gioco passa dal centrocampo, i piedi buoni sono fondamentali e con Pedrel, Brozovic, Guarin e Felipe Melo non si può costruire nulla, è come costruire una casa senza un architetto o un geometra. Primo appunto. E l'altro? L'altro è Pavoletti, secondo me merita la nazionale, perché altrimenti dobbiamo andare in Francia con Immobile e il Sharawi, due panchinari cronici. Beh, c'è anche Pellè, Francesco, c'è anche Pellè. È Pellè, ma io penso che Pellè e Pavoletti possano benissimo far parte dei sei attaccanti. Ma guardi, io secondo me è sbagliato farsi anche prendere dall'onda dell'entusiasmo quando c'è un giocatore bravo come Pavoletti che segna 10 gol in questo Genoa, eccetera, eccetera, eccetera. Speriamo vada avanti, arrivi a 20. Però bisogna considerare anche altre cose. Quanta esperienza internazionale ha Pavoletti? Cosa che conta in sì, un torneo come l'europeo. Quante ed è pari a zero. Pari a zero. Quante partite internazionali ha giocato? Insomma, poi è chiaro che se arriva anche molte a maggio altre cose. Facendo altri 15 gol il tema si pone. Però attenzione, perché stiamo anche parlando di un momento di particolare condizione di un giocatore. Bravo. Ma tu ti ricordi ai mondiali quando tutti ci scannavamo su Immobile? Si dicevano grosso modo le stesse cose. Aveva fatto una stagione straordinaria al Torino, è andato al mondiale, si è visto poco o nulla. La sua esperienza internazionale in questi anni dimostra come sia un giocatore ancora da, che deve ancora crescere, sì, deve ancora questo, fare il salto di qualità. Io non so cosa ne pensa Luca Calamai della Gazzetta. Ciao Luca, buonasera. Ciao, buonasera. No, io credo che ci sono dei giocatori che vanno presi al volo e questo Pavoletti è da prendere al volo, perché ovviamente siamo al 17 di gennaio, quindi calcisticamente c'è una vita da qui all'europeo. Quindi ma anche da qui tempo, a marzo, quando ci sarà l'occasione di vederlo. Abbiamo tutto il tempo di vederlo e valutarlo, però ci sono dei giocatori che vivono dei momenti. Allora, questo innanzitutto non è che gioca nel Barcellona, nel Real Madrid, nel Bayern Monaco, nella Juventus, dove può essere, o nel Napoli di Higuaín, dove può essere anche facile far gol. Vive in una squadra di grandi problematiche e io ho ancora negli occhi il secondo gol nel derby contro il Genova, con quella capacità tecnica di stoppare una pallata, perché gli avevano tirato una pallata, la freddezza di fare il pallonetto sul portiere in uscita e la ferocia agonistica con la quale poi ha fatto gol. Questo è un giocatore la cui crescita è esponenziale e quindi ce lo godiamo. Cioè, io rovescio il principio, dico per fortuna c'è Pavoletti, cioè ne avessimo tanti in tanti ruoli di Pavoletti che ci possano mettere dei dubbi e che possano magari fra 2 o 3 mesi essere dei valori aggiunti di una nazionale che così com'è è un po' troppo didattica, un po' troppo... È un po' povera, senza quel peperoncino. È un po' povera, Luca. È ecco, un po' manca povera. Un peperoncino. Trovatemi qualche peperoncino e credo che il primo a essere contento di avere qualche peperoncino in più sia proprio Conte, e che non sia, senza voler offendere nessuno, per carità di Dio, ma quei ripescaggi tipo Cassano e Balotelli prima del Brasile, di giocatori che comunque li conoscevamo bene nelle positività ma anche nelle negatività. Ecco, giocatori come Pavoletti oggi te lo godi per tutto quello che ti sa trasmettere di intrigante e anche di prospettiva divertente. Sì, aria fresca. Parliamo un po' di Fiorentina-Milan questa sera. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Ho le spalle larghe, so che ogni partita è ultima spiaggia, però era così se non facciamo punti a Roma, era così se non battiamo Carpi, sarà così domani se non battiamo Fiorentina o se non facciamo punti a Empoli, così avanti. Ho visto talmente tante queste spiagge che quest'anno in vacanza non andrò più al mare, andrò in montagna. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Ho letto chi ci crede ci vince, crede ancora a Mihajlovic. Certo che no, certamente. Presidente. Dobbiamo andare adesso, dobbiamo andare avanti e mettercela tutta con il Milan che abbiamo. Stessa spiaggia, stesso mare. So che noi diamo sempre il massimo. Qualche volta può andare meglio, qualche volta non bene, qualche volta sprechiamo troppo, però impegno non è mai mancato. Ho detto anche ai miei ragazzi di tapparsi le orecchie e giocare, e spero che anche loro riescano a farlo. Nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Per quest'anno potremmo anche lanciare un altro sondaggio con Luca Calamai: quanto credete a quanto crede Berlusconi di poter confermare Mihajlovic? Io non lo so, Luca, mi sono sembrate frasi di circostanza. Lo sono anche ascoltandole, soprattutto ascoltandole. Sinisa l'equilibrista. No, ma guardate che il Milan è, ma non da ora, è da un pochino di tempo, è irriconoscibile, no? Perché io credo che chi fa il nostro mestiere, al di là delle simpatie o delle antipatie, del risultato in più e in meno, nel passato vedeva nel Milan un modello gestionale nel calcio, quindi grande capacità anche di comunicazione, grande chiarezza di idee, grande lucidità anche negli investimenti. Oggi il Milan è confusione. è confusione a tutti i livelli. E sei d'accordo con me quando dico, e lo faccio spesso, che la confusione scende da, come una pioggia dalla società? Quindi è lì che regna la maggiore confusione. Cioè, ci sono delle storie che non hanno nemmeno bisogno di tanti aggettivi, come insegnava un vecchio maestro, basta raccontare fatti, no? Cioè, oggi il Milan è una società che ha una proprietà che contatta, che è in trattative con un altro figura molto importante per dividersi il pacchetto azionario, ha due amministratori delegati, non ce l'ha nessuno, ha un allenatore che sostanzialmente è stato esonerato a parole, perché comunque è dequalificato da tempo, ha condotto una campagna acquisti incomprensibile, ancora oggi non ha dei centrocampisti di valore e ha attaccanti in dose industriale, l'ultima operazione è vendere un centravanti e prendere un esterno, questo cedendo Luis Adriano e magari riportando il Sharabi. Cioè, c'è un senso di approssimazione. Nell'ultima settimana scorsa, se addirittura un uomo di grande esperienza e saggezza come Galliani, che ha aduto nel trappolone di Conte, arrivando a dire sì che in passato l'abbiamo trattato, ma come, c'è un allenatore che è appeso a un millimetro e te già gli butti addosso, non rendono la vita facile a Mihajlovic, che per carità ha Mihajlovic, fatto anche degli errori suoi. No, Mihajlovic ne ha combinato di tutte, ma la cosa più grave è mettersi sul piano delle battute, la pecora mangia il leone mangia, cioè robe incomprensibili. E non è riuscito a proporre nessun valore aggiunto da un punto di vista tattico, se non avere il grande coraggio, e questo gli va riconosciuto, di aver dato fiducia per esempio a Donnarumma, di aver difeso Romagnoli, di aver cercato di quantomeno di difendere un progetto giovane. Oggi il Milan è confusione a tutti i livelli, e nella confusione, mi insegnate, è molto difficile costruire. Sì, la domanda è se servirebbe a qualcosa eventualmente il cambio con Lippi o chi peraltro. Aspettate, c'è il traffico, poi rispondiamo anche a questa domanda. Traffico. So se è un ottimo allenatore, lo conosco, non è che lo devo scoprire io. Cioè, i risultati parlano per lui, perciò lui in questo momento è stato più bravo di me. Tutti convocati. Convocati. Allora, c'è un amico che chiede se stasera vedremo Balotelli. Credo di no, non almeno dal primo minuto. Dovrebbero giocare ancora Niang e Bacca, con Ondà e Bonaventura esterni e Montolivo Bertolacci in mezzo al campo. Queste dovrebbero essere le scelte di Mihajlovic. Luca Calamai, Gazzetta dello Sport, che poi non cambia nulla nel caos o nel progetto del Milan, anche dovesse andare via Mihajlovic. Questa è almeno la sensazione. Sì, ma innanzitutto vorrei ricordare che il Milan paga tre allenatori, no? Perché se no abbiamo già cancellato Sidorf e Inzaghi, e quindi il Milan negli ultimi 12 mesi ha tentato tutti i percorsi possibili e immaginabili, il vecchio campione, il campione che piaceva a tutti, il guerriero, e questo, ma lo ripeto, oggi ci sono due società che sono in evidente confusione, che sono Milan e Roma, e le problematiche delle società Esatto, ci sono dei punti di contatto situazioni. E ci sono due società che secondo me, che sono Napoli e Juventus, che per programmazione, per compattezza, per capacità e di divisione di ruoli ben chiari, per la voglia anche di comunque di sviluppare un percorso, pensate alla Juventus, sta comprando tutti i giovani italiani più forti, cioè vedi programmazione, la programmazione nel calcio non ti fa vincere magari subito, ma ti fa vincere, ecco, quindi oggi capisci la differenza. Il Milan è in questo stato, e credo che il primo passaggio però basilare credo sia stabilire se Berlusconi ha ancora la voglia, non parlerei tanto di aspetto economico, proprio la voglia di vivere ancora il calcio. E a quel punto deve creare una struttura societaria. Quando sento di parlare di Lippi, cioè Lippi non può venire a prendere il posto di Mihajlovic. Lippi ormai è, io lo conosco bene, Marcello, è un uomo che torna nel calcio con un ruolo più manageriale che tecnico, quindi mi tornerebbe se il Milan prendesse Lippi al posto di Galliani per quella che è la gestione tecnica, voglio dire, del mercato, delle strutture. Cioè Lippi non fa l'allenatore, non lo fa più ormai, cioè, può dare dei consigli. Magari potrebbe anche essere quella l'idea. Ferguson. Sì. Potrebbe essere magari anche quella l'idea. A proposito, Luca, di programmazione nella Fiorentina, perché stasera è importante anche per la Fiorentina, ha ragione Della Valle o ha ragione Paolo Sosa? Perché si è creato anche questo dibattito interno su dove debba andare la Fiorentina, quanto convenga spendere, rinforzarla, crederci. Guarda, io credo che non mi risulta che ci sia una frattura. È chiaro che chi fa calcio sa benissimo che gli allenatori vorrebbero tutto, i presidenti vorrebbero spendere poco, e quindi questo è strutturale. Però mi pare che nella Fiorentina, e qui scendiamo di livello ovviamente rispetto a quelle che sono le squadre di cui abbiamo parlato, proprio come potenzialità economica, mi pare che però la Fiorentina abbia delle idee estremamente chiare, sia in quello che è un percorso tecnico, perché la scelta di Sosa, che vi vorrei ricordare, viene dopo quella di Montella, cioè la continuità di allenatori che quantomeno provano a proporre un calcio divertente. Questa è la missione di questa squadra. E poi, per quello che so io, l'idea di andare a prendere sul mercato da Tello del Barcellona, di Sandro Lopez del Benfica, a trattare Grassi dell'Atalanta, non stiamo parlando di Messi, Cristiano Ronaldo, chissà chi, ma di giocatori che possono essere assolutamente perfetti per continuare a far crescere questo progetto di una squadra che negli ultimi, vado a memoria, negli ultimi 4 anni si è arrivato sempre quarta. Ma la Fiorentina fa bene a credere nel terzo posto, adesso lasciamo stare la parola scudetto, fa bene a credere nel terzo posto anche viste le difficoltà dell'Inter, ha una dimensione diversa. No, io credo che ci sono due squadre, lo ripeto, che secondo me sono più forti, che sono Napoli e Juventus, e il terzo posto secondo me se lo giocheranno l'Inter, che ha tanta ricchezza di uomini, ma forse anche un po' di confusione tattica di figure. La Fiorentina, che oggettivamente non ha quei valori, ma ha trovato un'idea comune su questa capacità di giocare questo tipo di calcio. E nonostante tutto, ma lo dico nonostante tutto proprio perché sono molto legato anche affettivamente a Luciano Spalletti, ho ancora il pensiero che in questo campionato, dove non scapperà via forse nessuno, dove comunque Inter e Fiorentina sono quelle, una Roma che è rimessa a posto fisicamente, che uscisse dagli imbarazzi di oggi. Oggi ho provato tenerezza, sì, a vedere la Roma, perché non ha né arte né parte. Sì. E, ecco, io credo che la Roma la metti come preghiera, la metti più che altro come preghiera. Sì, ecco, possa, però, perché se poi li prendi uno per uno, dici, ma com'è possibile, no? Ecco. Cioè, mentre hanno tutto, mi dice cosa gli manca alla Roma. Sì, cioè, manca quello che diceva Garcia, manca qualcosa in difesa, e lui ad agosto lo diceva, e la società aveva idee diverse, manca una condizione atletica, e questa non è colpa di Garcia, manca, esatto, forse manca anche un bagno di umiltà. Guarda, manca un bagno di umiltà. Si ritorna a Dama, si ritorna alla società, no? Una società che rinuncia a Romagnoli, che comunque voleva dire un progetto per tanti anni, che ha 12.000 attaccanti esterni, che continua a trattare ancora attaccanti esterni. Ma ora io credo che anche questa logica di mercato un po' bizzarre, con l'arrivo di Spalletti, che è un altro allenatore che come Mancini incide molto nelle scelte, credo che non a caso il primo acquisto della Roma sarà un difensore. Su questo ci potete mettere la mano. Poi però ricordiamoci che Mancini ci ha messo un girone l'anno scorso disastroso per arrivare a incidere ad avere un progetto che è quello che oggi lo porta al terzo posto. Grazie Luca. Ciao Luca, buona domenica a tutti. Grazie a Luca Calamai. C'è Morris da Ravenna. Chiedo scusa, sto chiamando, sì, di nuovo da Fusignano. Sì. Volevo chiedere, ma se ancora Stupirone Pardo, no. Prima mi sembrava un cannone senza munizioni. Arrigo, su, è il nostro Andro Mercù. Morris da Ravenna. Morris. Buonasera, torno in argomento Roma. Sì. Io penso che le critiche a Garcia siano imputabili solo ad un fatto, perché si è ostinato a giocare sempre con il medesimo modulo. Secondariamente, come chi mi ha preceduto, c'è stata una strategia di mercato veramente confusionaria. Al di là dell'ostinarsi a comprare delle grandi ali, secondo me i romani devono imparare anche ad avere pazienza. Lo stesso Dumbia, via da Roma, andava un po' aspettato probabilmente, ma esatto, probabilmente più che aspettato bisogna evitare di bruciarlo, così come è stato bruciato l'anno scorso. Luca da Bari. Luca, buonasera. Diciamo che è la città di Nerone. Eccoci. Un po' di pazienza a Roma mi sembra una contraddizione in termini. Comunque, prego Luca. Sì, grazie. Allora, sono un tifoso interista e ho seguito tutte le partite dell'Inter di questa stagione del campionato. E onestamente il 70% mi sono addormentato, devo dire la verità. Preferisco vedere un buon calcio, quindi spesso vedo il Napoli, spesso vedo... Prima vedevo la Roma. Sì. Quindi vedevo anche poi, altre squadre. Ultimamente, insomma, la Roma. Beh, ma buon calcio. Le consiglio di cambiare squadra? No, perché la fede, però se vede la partita della sua squadra e si addormenta mentre gode guardando le altre, può anche cambiare squadra. Non è ancora reato. Sì, no, assolutamente. Mi piace vedere il buon calcio in un certo senso. Però ecco, vengo alla mia squadra. Sì. Niente, io vedo che da quando ha perso i due mediani, perché l'Inter gioca bene quando gioca corta. Sì, i due mediani sarebbero Felipe Melo e, perché poi siamo in chiusura, Luca. Medel ieri ha giocato, non è stata la miglior partita, però il problema di Medel è così da un anno e mezzo, cioè se deve essere lui l'uomo che porta fuori il pallone dalla fase difensiva, evidentemente l'Inter qualche problema ce l'ha. Luca, grazie. Ci fermiamo qui, abbiamo finito. Appuntamento domani dopo il GR delle 14, noi torniamo invece domenica alle 17. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Valeria Bernardi e Andrea Roccabella in regia, il nostro Andro Mercù. Ciao. Ciao a tutti.